Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta. Oggi qui al COCS, all'Archivio Primo Moroni, abbiamo degli ospiti, colleghi e colleghe, docenti che vengono da varie scuole di Milano e in particolare abbiamo un ospite speciale, verrebbe da dire, Elena, una collega, una compagna che ha seguito fin dall'inizio una nuova mobilitazione che è sorta nel mondo della scuola e che ha fatto parlare di sé. Una mobilitazione che nasce in seguito a una serie di errori che l'algoritmo, la famosa macchina per le assegnazioni delle supplenze, è incappato. Dei colleghi sono stati saltati quest'anno e hanno perso la cattedra che avrebbero avuto diritto di avere e di fatto sono rimasti senza lavoro e senza stipendio. Tutto ciò è dovuto non tanto a un errore dell'algoritmo in sé, quanto a una forma di disorganizzazione, di mala gestione delle informazioni che vengono immesse dall'ufficio scolastico. Ma tu come fai a stare sveglia, a stare aperta, se dicono che ciascuno ha i suoi guai, però gridarli contro vento è inutile. E chiudi la bocca e quasi non respiri più. Finché qualcuno ti tocca, non ci sei soltanto. Insomma, Elena è qui per parlarci di questo problema, di quello che è successo e della mobilitazione che è nata in seguito a questi errori che hanno lasciato a casa una quantità significativa di colleghi e colleghe. È una mobilitazione che non è ancora finita, anzi, poi ci faremo anche dire quali saranno gli appuntamenti successivi. In una lotta lunga come questa è necessario combattere con gioia, dare luce, dare voce, dare aria. Il vento cambierà ad un certo punto. Ma non è questo il punto, non è questo il punto è che intanto lo respiri il vento e resti vivo e resti in movimento. Secondo me possiamo iniziare un attimo capendo, insomma, che cosa è successo, il problema principale qual è stato e che tipo di, insomma, di questione, anche di forma di ingiustizia vi siete trovati a dover subire, molti colleghi si sono trovati a dover subire. E qual è il contenuto della mobilitazione che state portando avanti? Se magari ci dai, magari cercando di essere anche, come dire, chiara per chi non è del mestiere, quindi spiegando un po' il più possibile, a parole chiare cosa è successo, insomma, e qual è poi il fulcro del problema, che è un problema grosso, è un problema decisamente grosso, che può essere che si ripeta anche in futuro, insomma. Sì, guarda, ci proverò, nel senso che il problema sono d'accordissimo, è grosso e se le cose non cambieranno si ripresenterà esattamente nello stesso modo anche l'anno successivo e quelli a venire, se non riusciremo a cambiare le cose. Magari faccio una breve premessina, appunto come dicevi, per coloro che non masticano propriamente di GPS e quant'altro. È uscito il primo bollettino di convocazione per le nomine GPS, quindi per immettere i precari della scuola, non i precari. Quest'anno, stranamente, è uscito il 31 agosto 2023, quindi prima delle immissioni ruolo che solitamente avvengono il 1° di settembre. Quest'anno le immissioni ruolo ci sono state il 1° di settembre e hanno dato tempo, giustamente, legittimamente, ai fuorisede, perché molti colleghi arrivano dal sud, di prendere servizio lunedì 4. Per cui solo lunedì, martedì 5 le scuole sapevano esattamente coloro che si erano presentati, che quindi avevano accettato il ruolo, e a fronte di coloro che invece avevano magari per scelte personali rifiutato il ruolo, perché le persone che sono in ruolo sono contemporaneamente per il primo anno anche iscritte ancora alle GPS. E questo è stato il motivo scatenante dell'immissione all'interno delle GPS di quelle che vengono chiamate le doppie nomine, Sì, le cioè GPS che persone. sono, scusami, ti interrompo un secondo, per chi non sapesse, sono le graduatorie provinciali per le supplenze, sono quelle graduatorie dove i famosi precari del mondo della scuola sono inseriti con un punteggio e vengono assegnati, insomma. Ah, esatto, sì, bravissimo, esatto. Da qui appunto tutte le persone che poi vincono i concorsi piuttosto che prendono l'abilitazione sono inserite nelle GPS. poi di fatto non hanno accettato, perché il 4 di settembre, il primo o il 4, dipende dai fuorisedi o meno, hanno poi accettato il ruolo. Questo cosa ha comportato? Che c'erano di fatto delle disponibilità falsate all'interno delle GPS, perché c'erano queste famose doppie nomine. Ok? Da qua anche poi c'è stato un altro errore, che è l'errore nell'inserimento dei dati reali, perché si è parlato di algoritmo. L'algoritmo in realtà funziona, perché l'algoritmo funziona con i dati che tu immetti, ma se immetti dei dati sbagliati, incompleti, inesatti, poi sfalsa tutto. E cosa c'è stato? Un ulteriore problema, perché? Perché di fatto le scuole hanno comunicato le cattedre, ma ci sono stati degli errori. Per esempio, sappiamo, comprovata con certezza, ci sono state delle scuole che per esempio hanno richiesto, faccio l'esempio di una che so in particolare, ha richiesto 5 cattedre come posto di supplenza, in realtà poi si è visto dal bollettino che ne risultava una sola. Dove sono finite le altre 4 cattedre? Voi direte, si recuperano al bollettino successivo. No, ed è qui che nasce il grande equivoco, che non è un equivoco. L'algoritmo non torna indietro, per cui nel momento in cui incrocia i dati tra le disponibilità delle cattedre e le famose, e qui preferenze, virgolettato, preferenze che ciascun candidato inserisce, perché ciascun candidato può inserire fino a 150 preferenze, cioè sceglie le scuole più comode, più vicine a casa, piuttosto che più congeniali anche alle proprie caratteristiche. Se in quel momento l'algoritmo non incrocia questi dati tra le preferenze espresse dai candidati e le disponibilità effettive delle scuole, l'algoritmo ti salta e non torna indietro. Per cui se in quel momento esatto tu non vieni pescato dalle GPS, non verrai, come è successo a me, più ripescato. Quindi capite bene che questa emissione dei dati falsata, coloro che hanno rinunciato, che hanno preso ruolo, oppure persone che si sono dimesse dal servizio o la mancata presa di servizio, ha comportato appunto questo problema, dettato ulteriormente dal fatto che quest'anno l'inserimento delle preferenze è avvenuto al buio, ossia quando io scelgo le preferenze dovrei teoricamente avere la possibilità di vedere quante cattedre, io faccio sostegno per esempio, ciascuna scuola quante cattedre mette a disposizione. Se io so per esempio che una scuola ha 20 cattedre vacanti sul sostegno, inserisco quella scuola, ma sì. Se una scuola non ha bisogno di cattedre, perché devo mettere quella scuola? Non la metterò. Ma se io non so l'elenco delle scuole, come faccio? Da qua il nome di preferenza al buio. Noi le abbiamo chiamate preferenza al buio, perché io metto delle preferenze sulla base così di non si sa bene cosa. Sono stata chiara magari in questo passaggio? Sì, chiarissima, guarda, molto, molto chiara. Poi si tratta, come ogni volta quando ci sono di mezzo le macchine, di cose complesse che appunto... Però abbiamo capito, insomma, che questo algoritmo, questa tecnologia non è perfetta, nel senso che gli errori che fa sono tanti, sono numerosi e poi sono difficilmente correggibili, perché una volta che un errore è stato fatto dalla macchina, insomma, poi è difficile tornare indietro, mi sembra che stai dicendo, no? La macchina non sbaglia in realtà, il problema è proprio nell'immissione dei dati, cioè il fatto che, anzi, il fatto viene a dire, perché... prima del Covid le nomine avvenivano in presenza, ok? E quindi tutti questi problemi non si ponevano perché le nomine avvenivano in presenza. L'algoritmo in realtà è studiato come se le nomine avvenissero ancora in presenza, le nomine non avvengono più in presenza, per cui diciamo che tutti questi passaggi umani, e forse anche da qua non sarebbe bello aprire altri contenziosi, cioè quanto la macchina poi può sostituire l'umano. È quella la bella domanda, secondo me, no? Anche da farsi. Esatto, qua apriremo, però forse... andremo fuori un po' sì, certo. Esatto. Niente, quindi procedendo da qua è successo il patatrac, perché noi abbiamo poi uscito il bollettino appunto il 31 di agosto, quindi prima di tutto questo, di questa assegnazione, e quindi per esempio io nel bollettino del 31 agosto, perché la Lombardia, Milano in particolare, ha dovuto far vedere che era una delle prime, no, ad arrivare grandiosamente a nominare, a mettere tutti in cattedra, poi da qua la propaganda, no, tutti i docenti in cattedra, e invece è successo quel che è successo. Da qua io per esempio, ma così come tanti altri colleghi rimasti saltati GPS, noi ci siamo chiamati, perché la lotta nasce come lotta organizzata dal basso, cioè coloro i quali erano stati saltati, e non solo, perché in realtà abbiamo avuto solidarietà anche da colleghi in ruolo, colleghi vincitori di concorso, persone che invece con il GPS erano riusciti a prendere servizio, pochi ma buoni e variegati. Da qui poi abbiamo avuto anche il sostegno e l'appoggio della DL Cobas, che è l'unico sindacato che si è fatto vivo e presente, cioè non ha solo messo la bandiera. Ecco, sì, Elena, magari, scusami, ti interrompo un secondo. Quindi se adesso, visto che stiamo passando appunto dall'esposizione del problema, come poi è nata invece la mobilitazione, che invece è tutta umana, tutta basata sull'incontro, anche lo stare insieme, il confrontarsi, ci vuoi parlare un po' di come è nata questa mobilitazione? Se è una mobilitazione, una vertenza che è nata direttamente in sede sindacale, oppure poi i sindacati, o alcuni di loro, forse uno solo, ha deciso di solidarizzare e affiancare questa mobilitazione. Prima di questo c'era Teresa, volevi dire qualcosa? Ti sentivi? No, io avevo, quando lei ha detto, quando tu hai parlato di errore, volevo pure io, poi ti ha rettificato anche lei, cioè non è un errore, è che tu, come l'intelligenza artificiale, lui ha citato l'intelligenza artificiale, quella che noi abbiamo adesso, l'intelligenza artificiale, non è è un'intelligenza artificiale che si chiama, non è general, è specifica, noi la alimentiamo, perché girano queste applicazioni di intelligenza artificiale ancora su una macchina che è obsoleta, quella che conosciamo, non è che abbiamo ancora gli hardware che simulano le connessioni neurali, dove quella è il futuro, quello prototipale che stiamo studiando. Quindi lei fa quello, ha un algoritmo sicuramente, ma poi funziona, i dati cambiano il risultato e quindi funziona, cioè meglio o peggio in funzione di come tu l'alimenti, perché in inglese si dice feeding, sì, tu l'alimenti, quindi pure in questo caso l'algoritmo fa sempre dati gli stessi dati in ingresso, ti darà sempre lo stesso risultato d'uscita, sono i dati in ingresso che sono sbagliati, loro vogliono implementare un sistema magari avanzato, però non vogliono fare il lavoro a contorno di raccogliere i dati, di darli puntualmente, queste disposizioni dalle prima, cioè sono i dati in ingresso che sono sbagliati. Poi che non torna indietro, quello è un altro discorso. Quello, vabbè. Però se fossero dati i dati giusti, non ci sarebbe bisogno di tornare indietro volendo, no? Quindi quello poi è un passaggio successivo. Quindi volevo solo dire che non è un errore, cioè l'errore è un po' improprio. Sì, no, certo, adesso ovviamente è sempre quel delicato, come dire, confine di interazione tra l'uomo e la macchina, no? Che poi crea. Comunque, Elena, dicevamo, no, ci sono trovati una serie di colleghi, una serie di docenti, di fatto o senza lavoro, con un quadro orario decisamente ridotto e avendo diritto invece, secondo graduatoria, a un'assegnazione ben diversa, ed è nata una mobilitazione al riguardo. È nata a Milano la mobilitazione, intanto. Esatto, è nata a Milano, appunto all'inizio auto-organizzata dal basso, quindi proprio lavoratori precari della scuola che si uniscono con il sostegno anche di colleghi appunto non propriamente precari. E poi l'unico sindacato, qua lo devo dire a gran voce, anche perché purtroppo a me spiace doverlo dire, anzi in realtà non mi dispiace neanche, si parla di connivenza se non addirittura di complicità dei sindacati confederali, perché sono responsabili, perché sono loro che firmano e quindi loro sanno bene, conoscono bene e hanno messo in conto, così come poi magari vi spiegherò successivamente, c'è stato detto gli errori li avevano messi in conto, gli errori ci sono stati ed evidentemente siamo vittime sacrificali, carne da macello, per cui che noi siamo a casa senza lavoro, insomma, interessa. Sì, quindi insomma i sindacati, come dire, i sindacati maggiori, i sindacati più noti, più potenti, si sono assolutamente disinteressati al problema, dici tu. Completamente, si sono non solo disinteressati, anzi ti dirò di più, perché poi la DL Cobas invece ci ha sostenuto e si è unita alla lotta, nel senso che quando abbiamo occupato il tetto di via Soderini per 5 giorni, cioè i sindacalisti della DL Cobas hanno occupato con noi, cioè quindi non è una lotta che uno arriva e tenta di pilotare la lotta eccetera, no, la lotta l'hanno fatta con noi e questo gli va dato merito, di questo gli va dato merito, punto. Per cui appunto la lotta poi si è estesa, c'è stata la solidarietà appunto della DL Cobas, però i lavoratori hanno continuato, abbiamo continuato e abbiamo tentato un incontro di mediazione con le istituzioni, dapprima con l'ufficio scolastico regionale di via Soderini a Milano, abbiamo una delegazione di noi, ha incontrato il provveditore, insomma Iuri Coppi, col quale c'è stato uno scambio rispetto al problema posto. Elena, avete occupato il tetto di via Soderini, dicevi che è l'ufficio scolastico. Regionale, abbiamo occupato il tetto, siamo saliti sul tetto con le tende, siamo rimasti lì venerdì, sabato, domenica. Probabilmente pensavano che la prima pioggia, perché in quei giorni, in 5 giorni ha piovuto 2 volte, ma tanta acqua è venuta giù, pensavano forse che ci saremmo arresi facilmente, invece così non è stato. Siamo rimasti lì, abbiamo cercato di incontrare nuovamente il provveditore, non ce l'abbiamo fatta, il dirigente dell'ufficio scolastico non ci ha voluto ricevere perché finché siamo sul tetto non vi ricevo, poi non ci ha mai ricevuto, non ci ha più ricevuto, per cui siamo scesi dal tetto il giorno in cui invece si è messo in mezzo la prefettura, quindi il prefetto di Milano, quindi siamo andati avanti, però siamo scesi dal tetto nel momento in cui la prefettura si è messa in mezzo, come si è proposta di proporre un tavolo di trattativa con Iuri Coppi. La prefettura appunto si è fatta garante, non siamo scesi dal tetto e questo incontro non c'è mai stato, per cui nuovo insomma muro delle istituzioni. A quel punto abbiamo spostato, come dire, se da una parte non riesci a sfondarlo il muro, provi a spostare l'obiettivo. E quindi siamo andati, ci siamo spostati all'USP di Via Polesine, quindi all'ufficio scolastico provinciale di Via Polesine a Milano. Abbiamo avuto un incontro con il dottor Zani, che si è dimostrato molto interessato, molto competente e anche comprensivo, per cui ci aveva garantito che il giorno successivo all'incontro, 3 ore di incontro, faticosissimo, ci avrebbe fatto sapere. Se non che scendiamo dall'incontro, bellissimo, e 2 ore dopo esce il nuovo bollettino. Per cui una crisi in giro totale, cioè eravamo sgomenti. Per fortuna avevamo deciso di salire, non? Il tetto era troppo alto in Via Polesine, a differenza del tetto di Via Soderini, c'era un ponteggio che quel giorno gli operai avevano montato per rifare la facciata e siamo saliti sul ponteggio. L'occupazione del ponteggio è stata piuttosto breve perché 2 giorni la polizia ci ha sgomberati, senza alcun incontro. Siamo stati presi proprio in giro dall'istituzione, non che io nutrissi grosse speranze, però effettivamente la proposta che era stata fatta loro era una proposta, ripeto, coerente, nel senso non ti chiedo di annullare. Parli dell'elenco integrativo, vero? Esatto, l'elenco integrativo. Altre assurdo che abbiano rifiutato addirittura l'elenco integrativo, cioè che non abbiano aperto una possibilità a questa cosa, significa proprio che non... Esatto. Non c'era nessuna volontà di dialogo, di apertura in nessun modo. Bravissimo, hai colto esattamente. Anche perché ti ripeto, cioè no, forse non te lo ripeto perché non te l'ho detto, ma tante province, cioè Mantova, Cremona, Brescia, hanno rettificato, hanno colto, hanno capito quali erano stati gli errori che avevano falsato l'algoritmo, che sono molto d'accordo con Teresa, cioè l'algoritmo funziona con i dati che gli mettiamo noi, se i dati sono sbagliati il problema è all'origine. Gli uffici scolastici di altre province, colto l'errore, compreso l'errore, hanno rettificato. Milano ha risposto: noi non lo possiamo fare perché abbiamo numeri alti e quindi, cioè, qual è il mio problema? Quindi è che vivo nella città sbagliata, cioè perché siamo troppi lavoratori. Hai troppe scuole, hai tante scuole, troppe mai, hai tante scuole, avrai tanti lavoratori. E quindi dovrai adeguare. A questa cosa non la sapevo, pazzesca, si aggiunge, come dire, assurdo all'assurdo. Che invece le altre province avevano già rettificato gli errori. E mi parlavi di una sentenza anche, no? che c'è stata, che in teoria andrebbe a suggellare, esatto, il fatto. Esatto, perché questa sentenza che è del Tribunale di Ivrea in qualche modo accoglie il ricorso di una saltata dalle GPS e dice proprio, adesso io non ce l'ho sotto mano, però fa proprio, mette in luce e in qualche modo ci dà assolutamente ragione, mette in luce che in realtà chi ha un punteggio medio-basso quest'anno sta lavorando a fronte di coloro che invece con un punteggio alto sono stati scavalcati proprio perché nel momento dell'incrocio dei dati risultavano, quindi non risultavano le cattedre assegnate, da assegnare, scusami, e quindi sono risultate rinunciatarie senza mai aver avuto alcuna proposta di cattedra. E quindi io come faccio a essere considerata rinunciataria se non ho mai rifiutato alcun posto? Capisci che è assurdo, cioè anche a livello proprio di linguaggio, sì, italiano. Sì, sì. E poi, vabbè, altri esempi, poi guarda, potrei parlare per ore e ore, ce ne sono tanti, però appunto questa sentenza riconosce questo, riconosce poi altra cosa, secondo me, almeno questo è il mio il mio parere. Altra cosa importante che riconosce è che in qualche modo sono stati penalizzati, tra virgolette, i precari storici. Tant'è che noi al primo incontro dicemmo proprio: allora va bene, se il problema sono gli anni di servizio, toglieteci il punteggio. Perché a questo punto, quindi voi in qualche modo state implicitamente riconoscendo che a voi dell'esperienza non ve ne frega. Sì, sì, ma infatti anche questo paradosso, no? Io poi tra l'altro sono, come dire, direttamente interessato, perché io sono in teoria titolare di concorso e proprio per questo problema quest'anno mi hanno dato uno spezzone di 8 ore senza completamento, come tanti altri colleghi che sono qui con me che hanno, immagino, problemi simili, no? E poi quando fa ridere il fatto che aggiungano merito al Ministero dell'Istruzione, che adesso è diventato e del merito, cosa in cui io non credo affatto, peraltro, però anche adottando la loro logica di interpretazione delle cose, cioè secondo il loro criterio di merito è tutta fuffa, perché quando io mi dimostro meritevole ai tuoi occhi, poi questo è quello che mi beccano, insomma, quindi fa ridere sotto tutti i punti di vista. Mi fa piacere che tu ci abbia raccontato questa cosa, perché io la trovo veramente una cosa pazzesca. C'è una palese, evidente ingiustizia alla luce del sole che viene totalmente, come dire, nascosta o elusa da chi dovrebbe prendersene la responsabilità. Ma noi gli errori li conoscevamo già, nel senso che l'errore, poi sul mio singolo caso, ho fatto l'accesso agli atti, loro hanno 30 giorni per rispondere, e se troverò l'errore allora poi dovranno prendere provvedimenti, eccetera. Ma gli errori noi lo sappiamo già che ci sono. Guarda, ti faccio un esempio che è vergognoso, e questo proprio è, cioè, sono atti pubblici, capito? Quindi non mi invento nulla di nuovo. Il secondo bollettino è uscito la sera del 29, perché noi avevamo l'incontro il pomeriggio, la sera del 29 è uscito il secondo bollettino, ok? Il secondo bollettino aveva, io non faccio nomi e cognomi per rispetto verso la collega, però proprio nella scuola nella quale avevo lavorato io, una bellissima scuola lo scorso anno, questa persona il 29 è stata assegnata da GPS in quella scuola con un punteggio bassissimo, ok? Il giorno prima lo stesso ufficio scolastico ha pubblicato una nota, quindi il giorno 28 alle 3:30 del pomeriggio, nella quale tralciava questa stessa persona per assenza di titoli specifici. State bene attenti, lo stesso ufficio preposto, ok, ha stralciato questa persona insieme ad altre con una nota pubblica, con nome e cognome, perché questa persona non aveva i titoli per accedere. In questo caso non aveva i 3 anni di servizio e quant'altro, quindi non poteva partecipare alla graduatoria GPS. Il giorno dopo gli hanno dato il servizio attraverso la GPS, lo stesso ufficio. Allora, a fronte di questo errore, io perché l'ho potuto vedere? Perché sapevo benissimo, perché era la scuola nella quale avevo lavorato io, e ovviamente sono andata a vedermi i nomi di coloro che avevano preso il posto, e quindi ho fatto 1+1. Quanti errori in Italia ci possono essere di questo tipo a livello proprio nazionale? È questa la cosa che fa veramente imbestialire. Poi ci sono altre cose, le quote stabilite dai riservisti, la legge 100, voi sapete bene, no? Il diritto alla riserva dei posti, la legge 68 del 99, che, e la legge 104, praticamente prima potevi sapere, adesso con la scusa della privacy, che poi anche lì, anche qua potremmo aprire un'altra parentesi, ci sono gli asterischi, quindi io non so se effettivamente questa persona, un'altra, è un altro caso questo ancora, ha diritto, aveva, non aveva, ma molte persone sbagliano a fleggare la casellina della legge 104 piuttosto che i controlli avvengono dopo, quindi queste persone prendono i ruoli, magari poi non avevano diritto ad averlo, ma l'algoritmo non torna indietro, quindi se mi hai saltato, anche se questa persona resterà a casa, l'algoritmo continua inesorabilmente a scorrere verso il basso, e quindi una volta che sei stato saltato, sei fuori. Sì, questo direi che, però questo in effetti è evidentemente, prima parlavamo, no, del problema uomo-macchina, ma questo sembra evidentemente un problema della macchina, cioè quando tu rendi ogni cosa, come dire, sottoposta al controllo della tecnologia, questo tipo di errori diventano fatali, nel senso che, come dici tu, poi la macchina non torna indietro, mentre forse un addetto, una persona fisica, dice... E questo è effettivamente un argomento interessante. C'era Teresa che mi sembra... No, però insisto, cioè l'algoritmo per definire... Che vuol dire torna indietro? A meno che non fai una ripetizione o ci metti dentro delle eccezioni, cioè consideri delle eccezioni. Cioè l'algoritmo inserisce i dati d'ingresso, elabora, esegue le istruzioni e ti dà un risultato. che torni indietro, poi è un discorso altro. Quindi qua più che tornare indietro, il discorso sarebbe: io mi sono resa conto che i dati che ho fornito erano scorretti, quindi la volta successiva, quando eseguo nuovamente l'applicazione, ci devo inserire dati corretti. Ma quello, insisto, è qua e vogliamo usare degli strumenti avanzati senza fare il necessario lavoro a contorno, con i tempi giusti, con le risorse giuste, quindi sarà sempre sbagliato, ma perché a priori che c'è un discorso che non... una preparazione inadeguata a servirlo. Quindi la seconda volta, col secondo bollettino, andavano inseriti i dati giusti, ma chi si mette a fare quel lavoro? Non lo fanno quel lavoro. E non accettano neanche che glielo facciano Sì, perché tra l'altro gli è stato anche presentato, quasi una soluzione, cioè quasi su un piatto d'argento, che comunque non è stata accolta. Esatto, il link integrativo non è stato neanche preso in considerazione, non hanno personale. Io poi ho rispetto per chi lavora e immagino, e lo so per certo perché vedo nelle scuole, le segreterie, gli ATA, sono conciati malissimo perché il personale lo tagliamo. E quindi io immagino che con i numeri a Milano, eccetera, ma non può essere un problema che ricade su di me e a cascata sulla scuola. Perché la situazione attuale in cui versa la scuola è critica, perché ci sono scuole che sono ancora senza supplenti, sono ancora, è inutile che vedi, perché poi i giornali, i TV e giornali, a parte veramente un giornalista che è stato con noi per spirito caritatevole, evidentemente il pomeriggio dell'occupazione del ponteggio, scusatemi, di Via Polesine, cioè i giornali chiamati, richiamati, eccetera, avevano la chiara, non lo so, il mandato, evidentemente li conosciamo, di non parlarne. Abbiamo fatto una fatica infinita, ma nessuno ne voleva parlare, perché comunque non doveva emergere lo sporco, cioè lo sporco lo butto sotto il tappeto e non se ne doveva parlare. Il problema è che questa situazione, cioè, non riguarda solo noi precari, riguarda noi come genitori e noi come cittadini, perché comunque la scuola, cioè, deve essere per tutti. Assolutamente. Ma come, perché devo avere delle scuole di serie A, delle scuole di serie B in cui ancora non ci sono, cioè ci sono scuole in cui il liceo scientifico delle scienze applicate in cui non ci sono ancora i docenti di matematica. Ragazzi, la scuola è iniziata da un mese, ormai. La settimana prossima festeggiamo il mese e non abbiamo ancora i docenti in cattedra, e in più, oltre alle cattedre scoperte, la continuità didattica, cioè io sono a casa, quella che aveva 8 punti, che ha preso il mio posto, è andata a scuola e poi è rimasta a casa anche lei, e il ragazzino per un mese senza l'insegnante di sostegno, cioè, e io sono a casa e prendo la graduatoria che mi verrà attribuita di un mese, ok, con un punteggio più alto rispetto a uno che invece ha una supplenza al 30 giugno al termine delle attività didattiche piuttosto che al 31 agosto, cioè anche... Voglio dire, questi non sono problemi solo personali miei perché non lavoro, ok? E non faccio punteggio, eccetera. Ma si ripercuote anche sulla scuola, cioè se vai poi propriamente di facciata ti dicono che è andato tutto bene, tutti in cattedra, eccetera, ma non è vero, non è vero, non è andata così. Parliamoci chiaro, qua tagliano e basta, tagliano tutto la scuola, tagliano la sanità e lo sappiamo. Sì, appunto. Sì, e non è dall'altro ieri, peraltro. Si tratta quindi a questo punto di impostare un percorso di lotte efficace, insomma, a partire dal presupposto che, morale della favola, non fidarsi, uno, dei sindacati confederati, due, della prefettura e tre, della stragrande parte dei giornalisti a questo punto. Questa, diciamo, è la morale. Una parte degli insegnanti. No. No, ma poi qua sai cos'è? Sapete cos'è, secondo me? Questo è il mio parere del tutto personale. Qui non si è colto che questa battaglia, questa lotta che abbiamo messo in campo, perché vabbè, ci ha riguardato, sai, senza stipendio non è facile mai, soprattutto a Milano, poi. Però era una, come dire, tra virgolette, che nessuno me ne voglia male, era una lotta parziale, è una lotta parziale, ma è un tassello di una lotta più grande, perché qua siamo di fronte a una mercificazione, monetizzazione, sfruttamento dei precari e della scuola, loro non ne frega niente. Guardate adesso i 60, prima ci dicono i 24 CFU, poi diventano 30, poi 60, cioè ma dove l'hai visto che tu devi pagare per abilitarti, cioè quindi sì, perché poi bravo, compri dei pacchetti spesso da università private, di fatto diventa bravissimo. Una sola che se c'hai i soldi te li prendi, se no no. Bravissimo, sei grandioso, hai centrato, e di fatto poi le stesse persone che comprano i titoli eccetera ti dicono ma guarda che sono farlocche, io figurati, ne ho sentite e ne ho viste con i miei occhi, ma... di università online che danno già i test, tu paghi, ma paghi 500, 1000 euro, ti compri due punti e pensi di avanzare in graduatoria così. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io poi sono convinta che la formazione debba essere continua, assolutamente, ma non può ricadere sulle mie tasche, che anche qui, allora, che cos'è che ti interessa di fatto? Ti interessa avere dei docenti validi, qualificati e formati, o ti interessano i loro soldi? Perché di fatto tagliano alle università, hanno tagliato fondi, mano sulla spalla, alle università è stato detto loro: guarda, non vi preoccupate, vi tagliamo i soldi, ma troveremo un modo di farvi finanziare di più. E quel modo l'hanno trovato a partire dal TFA, che sapete, per chi non lo sa, è il corso che è abilitante per i docenti di sostegno, e quindi ti devi pagare, ok, 3.500-4.000 euro all'anno. Okay? E quindi moltiplicateli. Sì, adesso sì, per accedere ai concorsi devi pagare 2-3 mila euro, ma di cosa stiamo parlando? Ma è follia, capite? È proprio follia, e non ti interessa assolutamente mettere in cattedra dei docenti competenti, punto, perché di fatto è così. Ma cioè, non credo che ci sia altro da aggiungere, visto che ne sapete più di me, insomma. Sì, sì, certo. Due parole invece sullo sciopero del 20. Sì, in generale sulle nuovi appuntamenti che con la mobilitazione che si è creata avete in programma, insomma, e lo sciopero del 20. Ok, giusto, bravissimo, ottimo, non ci sarei arrivata. Allora, sì, guarda, abbiamo un'assemblea appunto organizzativa in preparazione del 20, mercoledì prossimo, aiutatemi Teresa e Elenia, alle 19, se non ricordo male. Sì, mi chiedi troppo. Sì, alle 19, sì, me lo confermo anche. Alle 19, in via Alessandro Volta 22, alla Camera del Non Lavoro. Ci troviamo appunto per fare il punto della, appunto, scusate, gioco di parole, per fare il punto della situazione e per organizzare questa piazza tematica, insomma, perché nello sciopero del 20 ottobre porteremo queste istanze e altre legate alla scuola, cercando di aggregare, perché appunto non è una situazione che riguarda solo noi precari, perché anche i colleghi di ruolo, stamattina a scuola io ho accettato nel frattempo una supplenza di un mese, eccetera, anche i colleghi di ruolo, cioè immaginatevi che ogni anno devono cambiare colleghi, e cambia il consiglio di classe, e cambiano i insegnanti di sostegno, cioè insomma questo precariato fa male a tutti. Ok, non solo a chi la vive direttamente sulla sua pelle, per cui l'idea è di cercare di estendere la lotta, i motivi della lotta, e di aggregare più persone possibile che hanno a che fare con la scuola, non devono necessariamente essere lavoratori della scuola, i genitori, gli studenti stessi, che voglio dire, vivono sulla loro pelle anche tutto, cioè sul PNRR, insomma tutti questi progetti. Sì, sì, quindi è una mobilitazione collettiva, insomma, di tutti i lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola, ma non solo, studenti, genitori, chiunque orbiti intorno a questo. Esatto, quello è il tentativo, poi, perché è uno sciopero che riguarda, uno sciopero più generale esteso, che riguarda un sacco di temi, eccetera, più ampi, dalla guerra, per carità, tutti i temi fondamentali, anche più importanti ovviamente, però noi porteremo e cercheremo di portare in piazza anche questo aspetto della scuola, sì, che non è da poco, insomma, che riguarda la formazione e l'istruzione di centinaia e centinaia di giovani che sono il nostro futuro, poi. Assolutamente, no? Elena, sei stata impeccabile, davvero, ti faccio i miei complimenti. Ascolta, prima di chiudere, io vorrei magari leggere almeno una parte dell'appello di ADL Cobas per l'assemblea di mercoledì 11, e poi volevo farti invece una mia domanda personale, non solo a te, magari anche agli altri colleghi che hanno partecipato alla mobilitazione. Tanto certo, prima di chiudere magari lo faccio subito per evitare poi idee, vi volevo ringraziare tantissimo, perché appunto già solo il fatto di essere venuti, di aver partecipato alle assemblee, di aver avuto la volontà di fare da cassa di risonanza a questa lotta, io vi ringrazio davvero. Anzi, ringraziamo noi te, è assolutamente da parte nostra un piacere e un dovere fare queste cose, assolutamente. Grazie a te per essere stata così esaustiva e competente su un argomento peraltro molto complesso come quello degli algoritmi, eccetera. Niente, io leggerei questo appello velocemente e poi ti farei l'ultima domanda. Mercoledì 11 ore 19, assemblea della scuola, Camera del Non Lavoro, via Volta 22, Milano. 20 ottobre, costruiamo una piazza tematica del mondo della scuola. Appello a tutte le lavoratrici e lavoratori della scuola, agli studenti e a tutti quanti vogliano opporsi al disfacimento dell'istruzione pubblica quale diritto universale. È arrivato il momento di dire basta e ribellarsi, costruendo il 20 ottobre una piazza tematica del mondo della scuola durante lo sciopero generale. Nonostante la comunicazione propagandistica, anche quest'anno la scuola è iniziata con un bagaglio di problemi sempre maggiore. Precari sui tetti perché ingiustamente saltati nell'assegnazione delle cattedre. Studenti costretti a rischiare la propria vita nell'alternanza scuola-lavoro e a subire misure repressive inadeguate alla comunità educativa che vogliamo essere. Cattedre vuote, libri di testo sempre più cari, affitti insostenibili. Docenti con stipendi da fame e contratto scaduto che, pur non arrivando a fine mese, subiscono l'imposizione del pizzo dei 60 CFU legalizzato dal nuovo DPCM, pubblicato il 25 settembre. Ne parliamo mercoledì 11 ottobre alla Camera del Non Lavoro, con le lavoratrici e i lavoratori della scuola, studenti, genitori e solidali, a cui rivolgiamo questo appello. Quindi l'appello nostro è di esserci in tanti, essere combattivi e avere voglia di portare avanti questa lotta anche oltre. E invece la domanda che volevo farti è, siccome noi pensiamo che ci siano tanti problemi e tante cose brutte, ma i momenti di lotta sono anche momenti belli, in cui ci si incontra, in cui si sta insieme, in cui tutto sommato si solidarizza il malessere sociale, la rabbia, sono momenti fondamentali. Volevamo chiudere con una piccola nota di speranza e di, come dire, anche di aneddoti piacevoli. C'è stato qualche momento tra il tetto, la mobilitazione, la solidarietà che avete ricevuto, che tu ricordi con particolare piacere o che ti ha coinvolto emotivamente particolarmente, o insomma sei contenta di avere vissuto? Allora, sì, guarda, in realtà hai ragione, hai proprio centrato, perché di fatto sei lì che sei a tratti anche disperato, perché la sera del secondo bollettino era una situazione surreale, grottesca, sembrava il teatro dell'assurdo, perché tu quanti punti hai? No, tu ti hanno chiamato, a me no, non è arrivato. Ah, perché prima arrivavano le mail personali e poi è uscito il bollettino. Ma te ti hanno chiamato, in che scuola? Ma no, l'ho messa anch'io qui a scuola. Quindi c'è stato un momento in cui ci siamo guardati tutti, sembrava una guerra, era come se volessero metterci in guerra gli uni contro gli altri, se la classica guerra da certo, poveri. Certo, la guerra no? Tra i poveri. Guarda, mi vengono, ti giuro, mi emoziono. Ci siamo guardati e abbiamo detto, no, questo è il loro gioco, ma non sta al nostro. Sono contenta per te, perché saperti a casa con me non mi farebbe stare meglio. Allora, questa cosa, guarda, mi ha fatto conoscere un sacco di persone che, magari appunto alcune delle quali erano al primo corteo, cioè avanti mille anni luce, perché magari non avevano ancora neanche fatto mai un corteo in vita loro e si sono trovati a occupare a dormire con le tende sui tetti. Però questo ti fa capire che quando poi riesci e ti trovi su qualcosa di grande, anche nelle difficoltà ti unisci e c'è una solidarietà infinita, veramente. E questo ti scalda il cuore, vero? Il valore della lotta e della solidarietà e della condivisione. Ti scalda il cuore, anche persone, cioè dire, ma allora tu hai un problema, come facciamo? Facciamo colletta, l'affitto? No, cioè, veramente ho trovato, ho conosciuto delle persone, tante al femminile, tante donne, lo devo riconoscere, ma anche tanti uomini, non facciamo una distinzione di genere, comunque delle persone veramente valide, delle persone belle che si sono spese, che abbiamo, cioè, ci siamo commossi, ci siamo arrabbiati, abbiamo provato tutti i sentimenti, eccetera, però non abbiamo mai smesso di crederci. Guarda, questo è sicuramente uno stimolo ad andare avanti e perlomeno ti fa capire che stai andando dalla parte giusta. Comunque andrà, io lo dico e l'ho sempre detto, sarà stata una vittoria, comunque, al di là di poi di come si concluderà questa pessima vicenda, che fa star male, perché voglio dire, qua siamo senza lavoro o con una supplenza di 30 giorni, sai cosa me ne faccio, però di sicuro questo non ce lo toglieranno. Certo, questo è assolutamente vero, è bellissimo sentirti dire queste parole, davvero. Noi crediamo molto anche in questo lato di grande forza che ha queste cose che hai detto. E insomma, io ti ringrazio molto. Noi. Grazie mille, Elena, davvero. Grazie a voi, no, come ho già detto, grazie mille a voi, sinceramente. E speriamo di rivederci mercoledì all'assemblea e poi in piazza. Sì, ci vedremo. Io sicuramente verrò all'assemblea. Sì, invito chiunque ascolti, le ascoltatrici e gli ascoltatori, a venire all'assemblea. E se qualche collega che è qui presente, ringrazio moltissimo anche i colleghi che sono venuti, che abbiamo fatto vedere la Calusca, Cox, l'archivio Primo Moroni. Se volete aggiungere qualcosa, avete qualcosa da dire, anche solo un'osservazione, prima di chiudere. Vabbè, un ringraziamento particolare aspetta. All'archivio. Io volevo ringraziarti, Elena, cioè perché da, cioè, da, nonostante fossi nella vostra stessa situazione, cioè, alla fine ho trovato molto coraggioso il vostro gesto, sicuramente diciamo dobbiamo sicuramente intervenire adesso per correggere gli errori futuri, quindi grazie per, cioè, da parte mia per aver difeso un diritto che io magari non ho avuto troppo il coraggio di difendere. Però ma è troppo tardi, infatti sei qua e lo stai difendendo, grande. Faccio un complimento a te, grande. Va bene Elena, allora grazie davvero, ci vediamo presto e continuiamo la lotta fino alla fine. Grazie a voi, a tutti un abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Ma tu come fai a stare sveglia, a stare aperto? Se dicono che ciascuno ha i suoi guai, però gridarli contro vento è inutile. E chiudi la bocca e quasi non respiri più. Finché qualcuno ti tocca, non ci sei soltanto tu. Larga la storia, lunga la via. Come questa è necessario combattere con gioia, dare luce, dare voce, dare aria. Il vento cambierà ad un certo punto, ma non è questo il punto. Il punto è che intanto lo respiri il vento e resti vivo e resti in movimento.